Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera ai nostri ospiti di stasera. Ciao. Ciao, ciao. Lontano, ciao. Buonasera. State bene? Sì. Certo, benissimo. Bene, vi vedo in ottima forma. Un po' accaldati. Ma qua è molto caldo, ma siamo in diretta, assolutamente in diretta. 22.06 di mercoledì, stasera in regia c'è Marco Borgato, che non vuole parlare, Marco, ma forse più tardi parlerà anche lui, che mi dà una mano in regia stasera. È un mercoledì di rock. Il rock è il mercoledì, è classico del mercoledì del rock di Rock Wave. I Naif, siete un gruppo di Padova, di provincia di Padova, e siete rock, assolutamente rock. Assolutamente, Elisa, sì. Tu che sei la leader della band, possiamo chiamarti così, sono d'accordo loro? La capa della band. Nell'ambito del rock, Gianluca, che è un vostro amico, è un nostro amico, che quando vi ha portato nella sua emittente vi ha detto è un gruppo energico al 100%. Intanto salutiamo Gianluca. Ciao Gianluca, certo. Allora, è un gruppo energico, il live è fondamentale. Perché, Elisa? Perché il contatto con il pubblico ci gasa. Ci gasa. Decisamente. Ci piace vedere la gente che con noi salta, che si prende... che prova le stesse emozioni che proviamo noi. Noi ci lasciamo trascinare da quello che facciamo e vediamo che anche il nostro pubblico, insomma, si... viene trascinato. Certo, sì. Facciamo una piccola storia della band. Come è nata musicalmente la band, Elisa? Partiamo dalla preistoria. No, parliamo dalla preistoria, poi ci sono stati dei cambiamenti. Sì, preistoria... Ancora gli anni 90. Ancora gli anni 90. Francesco dice ancora gli anni 90. Sì, perché eravamo i primi Naif, siamo stati io e lui. C'erano ancora le lire. Sì, aveva ancora il biberon. Sì, partiamo da... appunto eravamo io e Francesco, il bassista, e... che è un bel basso stasera, bello, molto bello, anche visivamente. Sì, poi no, con le fotografie, cari ascoltatori, potrete ammirare il basso di Francesco. Ok, dimmi. Luigi. Ha scelto lui il nome, tra l'altro, Naif, l'ha scelto Francesco. Come mai hai scelto questo nome, Francesco? Beh, semplicemente perché era il più corto. Giusto, perché una band come... mi sembrava anche semplice. Marco, mi insegna, una band con nome corto si ricorda subito. Marco annuisce. Diciamo che altri gruppi, insomma, ce l'hanno copiato, o forse noi l'abbiamo copiato ad altri. Beh, in ogni caso è un nome breve. Non possiamo sapere. Nome breve, quindi immediato, assolutamente. Sì, Naif. Sì, sì. Naif. Poi cosa è successo? Noi ci siamo persi per strada un pezzo del gruppo, nel frattempo abbiamo conosciuto Michele, che aveva perso per strada un pezzo del suo, e destino ha voluto... pezzi hanno fatto un pezzo solo. Destino ha voluto che Naif... Michele è il chitarra solista della band. Sì. Stasera Michele chitarra acustica stasera, sì, necessariamente. Ci provo, posso dire una cosa? Dimmi. È il più vecchio lui. Ah, è il più vecchio lui. Adesso lo puoi ribadire. È il più vecchio. È il più vecchio. E poi abbiamo una new entry, un ragazzo giovanissimo che ha batteria stasera, gioca, cosa suona? I cimbali. E ovetti. E l'ovetto e un po' di cose, perché la batteria chiaramente in uno studio radiofonico, anche se qualche volta abbiamo ospitato una maxi batteria, però stasera abbiamo deciso di ridurre il discorso percussivo, vero Francesco? Drasticamente, sì. Drasticamente. Quindi Elisa, però avete una discografia, non mi striminzita, avete già fatto qualcosa? Abbiamo fatto il terzo album, è uscito a settembre del 2011, quindi è abbastanza fresco, insomma. È il terzo, il primo è nato La scatola del tempo con i brani che avevamo scritto con i primi Naif, insieme ai brani appunto scritti da Michele con l'altro gruppo. Poi abbiamo fatto Velenoso nel 2007. Sempre autoprodotto da voi? Velenoso no, La scatola del tempo sì. Velenoso invece abbiamo trovato un'etichetta, un produttore. E l'ultimo invece abbiamo scelto, l'ultimo si intitola Mai una distrazione. Lo presentiamo stasera. Certo. E abbiamo scelto di autoprodurlo. Siamo tornati alle origini. Alle origini. Perché avete scelto Elisa di autoprodurlo? Perché la discografia adesso non è ben disposta, c'è troppa crisi anche in quel campo, quindi il non è ben disposta per i band emergenti, no. Assolutamente no. No, diciamo che ti propinano contratti con un sacco di clausole, un sacco di vincoli e sinceramente piccoli, scritto noi... in piccolo di solito, No, anche scritto in grande. Scritto in grande. Però abbiamo preferito, insomma, gestire le nostre canzoni, la nostra musica come vogliamo noi. Certamente. E quindi... senza compromessi, più che altro. Esattamente, quindi un disco assolutamente autoprodotto, che è l'ultimo praticamente, sì. Con tutti gli sforzi che ne derivano, sì. Autoproduzione anche economicamente, certo, sono cose che capitano, però bisogna suonare, la voglia di suonare va oltre a questo. Sì, poi è una soddisfazione comunque avere il disco in mano, anche se ci è costato sudore, fatica e tanti soldi, però è un Blood, Sweat and Tears, sudore, fatica e sangue. Beh, lacrime, sangue. Sudore, fatica, praticamente. No. Noi crediamo nella divina provvidenza. Qualcuno dall'alto ci ascolterà. Giusto. Molto in alto. Abbiamo il nostro profeta qui. Benissimo, ok, allora cominciamo come sempre di solito facciamo noi a Rock Wave, 22:11, quindi in perfetto orario e in perfetta diretta. Annunciamo, cominciamo ad aprire la finestra e presentiamo la prima traccia del disco che avete scelto da disco, è la traccia numero 3. La numero 3. La vuoi presentare un momento, Elisa? Si intitola Furba America, è la canzone che più rappresenta quello che cerchiamo di dire con questo disco, è un po' polemica, è contro la guerra chiaramente, è contro... Parla un po' dei temi attuali di adesso, è un po' incentrata sugli americani effettivamente, sul loro brutto vizio di giustificare spesso, troppo spesso, delle guerre. È un po' rappresentativa del nostro pensare. Ok, sentiamo adesso. Rock Wave, l'onda del rock. Guerra eterna e brava senza fine, lite cronica, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, l'onda del rock. Eccoci qua, benissimo, abbiamo sentito questo pezzo iniziale, per iniziare, cioè per dare la presentazione dell'album, un pezzo decisamente trasgressivo e aggressivo. Elisa, dai tutte le tue potenza vocale, come mai questa forza, al di là del testo, anche dal punto di vista live, del palcoscenico, del palco proprio? Dipende sempre da quello che canto, dipende dal testo, dipende tantissimo. Era una delle principali critiche che mi facevano quando abbiamo iniziato, dovresti interpretare di più le parole, mi dicevano. Ah, ho capito. Così ho fatto, spero di riuscirci. Gianluca Merlì, che citiamo, che ha fatto una recensione molto azzeccata, di quella della RCS, della Radio di Verona, che salutiamo ancora, lui ha detto che c'è un sound che diventa aggressivo, ma nello stesso tempo riesce a trovare una vena melodica. Ed è giusto questo, secondo me, è fondamentale. Perché la melodia esiste. Sì, c'è in parecchi brani. In parecchi brani, cioè assolutamente. Non... Viene fuori, perché è giusto che sia. Sì. Anche se questo pezzo è un pezzo molto aggressivo, l'arrangiamento come l'hai fatto, visto che Francesco prima mi covrono spento dice, no, è stato Michele. Dimmi. Normalmente, oppure mi viene in botta il ritornello nella testa e comincia a frullarmi nella testa, a girarmi finché non mi viene fuori qualcosa per suonarci sopra. Oppure mi viene fuori il giro armonico principale. Ti viene fuori il giro armonico principale. Questo pezzo che giro armonico principale aveva quando è stato creato? No, questo pezzo qua mi è venuto proprio in mente il ritornello. Ah, esattamente. Cioè proprio ce l'avevo in testa e poi da lì ho sviluppato tutto il resto. Il ritornello che entra, cioè praticamente che lei dà una colorazione importante al ritornello, visto che è il vostro singolo, o presunto tale, questo qua, si può definire così? Sì, è la canzone che abbiamo scelto di curare un po' meglio per lancio del disco, praticamente. Sì. Poi senti c'è sto gioco che praticamente lei parla. Sì, esattamente. E lei canta la parte e poi io praticamente gli rispondo. Quindi l'arrangiamento l'hai fatto te, cioè Francesco ci ha messo il basso, un basso incalzante, un basso che ha un certo peso praticamente, Francesco. Un basso furbo. Basso furbo, praticamente. Si è intrufolato nel brano. Ed un'ottima performance fa la new entry, Francesco, il più giovane della band, che suona la batteria. Cosa vuol dire suonare la batteria in un gruppo come i Naif, che avevo già uno status precedente? Beh, guarda, quando sono entrato io nei Naif, sono stato molto, molto onorato della chiamata, insomma, di Michele. È Michele che gestisce le chiamate della band, dei nuovi adepti alla band, praticamente. Esatto. Io avevo già un'altra band precedente. Che tipo di band facevamo? Facevamo cover principalmente AC/DC. Ah, quindi duretti, insomma. Sì. E lì su quel gruppo ho imparato un po' a suonare la batteria, però non ero ai livelli Naif ancora. E niente, Michele ha collaborato con noi in un demo che abbiamo registrato e ci siamo conosciuti in quell'occasione. Dopo il gruppo mio è stato sciolto e un bel giorno ti ha fatto la proposta. Esatto, mi è arrivata la telefonata con l'anellino in mano, in ginocchio, e niente, mi sono buttato in questa esperienza. Ero un po' timido all'inizio perché appunto le mie conoscenze comunque non erano molto sviluppate, però diciamo che i Naif mi hanno aiutato moltissimo a crescere musicalmente. Poi una cosa importante, diceva Michele, tu hai una conoscenza di fonico, cioè ti interessa anche la commistione dei suoni, quindi avendo anche quella conoscenza ti è servito ad entrare a fare il ruolo di batterista. Sì, diciamo che sono due ruoli che comunque si compensano molto, sia dal lato lavorativo che comunque a livello musicale. Suonare la batteria, proprio si può dire che vivo dentro la musica. Ecco. Quando fate un pezzo dal vivo, cioè quando suonate dal vivo, questo è il pezzo ad apertura del concerto oppure no? No, di solito no. Di solito ho sbagliato tutto. No, di solito Furbo America ce la conserviamo per dopo. Quando sì, c'è un po' più quella gente che si sta scaldando bene. Esattamente. Benissimo. Ok, adesso, visto che abbiamo iniziato, abbiamo aperto la finestra, e ora, come mi insegna Marco in regia, di suonare. Che cosa suonate, ragazzi? Noi vorremmo suonare Gioco Distratto. Benissimo, Gioco Distratto, un altro pezzo molto interessante. Io ero incerto tra scegliere questo come pezzo a far sentire più di una... per chi giovani, mi sono scelto un pezzo più acustico, una ballad, però era un pezzo che mi attirava anche questo. Ma credo proprio che poi lo faremo anche sentire, quindi... Bene, sentiamo allora le due versioni. Ok. Soffice la polvere accumulata del caffè e quella che riposerà sopra un'agenda dimenticata. Tempo rubato, tempo che raccoglie la noia e il bello che c'è, distrugge la via e complica la regola. L'istinto pian piano crescerà. Da dentro quel che si vuol dire a volte fa pensare ancora di più di quello che c'è, di questo vibrante sentimento cresciuto con me, ancora di più di questo tempo un po' sciupato, un po' distratto, passato con te. Giudice la nostalgia, la notte amara è pratica, vacilla l'ansia dentro te, esplode ancora una lacrima, gioco tirato lazzo che stringe più forte senza un perché, e intorno a questo tutto volta a pagina. L'istinto pian piano crescerà. Da dentro quel che si vuol dire a volte può far male, ancora di più di quello che c'è, di questo vibrante sentimento cresciuto con me, ancora di più di questo tempo un po' sciupato, un po' distratto, passato con te. Eccoci qua, benissimo. Io ho visto una cosa molto interessante, i nostri ascoltatori non hanno visto che non ci sono le webcam, ho visto il gioco fra il basso di Francesco e la tua chitarra acustica, vi rincoravate assieme, sì, giocavate su questo, è una cosa molto bella. C'è un pezzettino, sì. Me lo rifai un secondo questo giochetto che... Vai, vai, vai, vai. Perfetto, era molto significativo, molto interessante, mi piaceva particolarmente questo gioco. È andata bene. È andata, dai. Sì, beh, voi dovete sapere che a Rockaway, quando ci sono io alla conduzione, quasi sempre, vero Marco, cambio sempre le scalette, quindi è molto pericoloso quando ci sono. È molto pericoloso, a me piaceva ti molto. Ti sta odiando Francesco. È bello, no, mi odia nel senso... pista musicale, quella sì, certo, è una cosa positiva, però è significativo. A me piaceva particolarmente questa vostra invenzione qua in questo momento alle 22:25 in diretta, era significativo. E beh, il pezzo era molto bello anche perché è molto accattivante nel ritornello, è assolutamente è la parte più importante del pezzo, questo ritornello che dà un certo senso al pezzo. Cosa dici? Per quello volevo sceglierlo come pezzo da lanciare per un mese, mi sono scelto Avvenire, il pezzo, la traccia numero 7 è una ballad, però anche questo mi intrigava, possiamo dire questo. Come l'avete creato questo pezzo? Vai. Allora, questo qua Esatto, sempre partito da Michele. Da Michele. Michele, sì, che sì, accordo? Ha avuto il momento romantico, perché parla di una storia d'amore, effettivamente. Sì. Gioco distratto, perché quante volte voi uomini vi sentite dire dalle vostre donne: ma perché ti comporti così? Mi trascuri? Ma perché? Un po' è quello il senso del gioco distratto, è quel, quell'amore è vissuto un po' per abitudine, senza badare troppo, dando tutte le cose per scontato. È nato da questo. È nato da questo, sì, sì, sì. E poi come cioè, il, dimmi. Il fatto di ricordarsi, no? che stai con una persona e che gli devi voler bene. Cioè, certo. Ricordarsi. Ricordarsi nel senso. Sì, sì, ho capito. E non dare tutto per chi scontato. Sei tu? Dal punto di vista musicale, il ritornello come è venuto fuori questo giro praticamente? Guarda, sinceramente non me lo non ricordo. Te lo ricordi. Ma come ricordo. Nascono i pezzi di Naif? Dove, come nascono? Tu fai un giro, Francesco fa un giro, Francesco alla batteria dà un accordo, di Elisa solito, pensa di solito qualcosa. Li creo io, però qualche volta capita che facciamo delle improvvisazioni. In studio? Magari, sì. Ha detto uno studio a casa? In sala prove. In sala prove, sì. Scusate. E magari, non so, Francesco arriva su con un giro di basso e magari me lo fa sentire, no? E io me lo ricordo, magari mi ricordo. Oppure Francesco Toppi, sì. Perché sono due Franceschi. Sì, sì, Francesco basso e Francesco la batteria. Dai. E io praticamente... immagazzino i dati. Esatto. Vabbè, tengo da parte i dati di quello che hanno fatto loro e se mi viene in mente qualcosa che può agganciarsi alle loro idee... A proposito, tu hai messo in magazzino i dati. Quindi avete dei pezzi già pronti nel cassetto, non utilizzati nei dischi precedenti e in questo disco che è appena uscito? Oppure avete già terminato tutto e fate dei nuovi pezzi? State creando dei nuovi pezzi? No, beh, io nel cassetto ho già due pezzi scritti. Ah, quindi per un nuovo disco praticamente. Sì, però in questo istante, in questo momento vorremmo spingere più. Beh, chiaro, che c'è, questo perché... disco che è uscito l'anno scorso, quindi sì, è recente. Sì. Anche molto se recente. Poi in realtà tra l'arrangiamento, cioè il periodo di arrangiamento, il periodo di produzione, poi di registrazione è molto lungo, quindi alla fine per noi, in definitiva per noi sono già vecchi, nel ho senso capito. Che... Però il disco è effettivamente appena uscito, quindi è giusto dare più spazio a questo, insomma. Adesso ci sarà tempo per cose nuove più avanti. Quanto tempo ci avete messo per fare il disco, quello nuovo, Elisa? Ci abbiamo messo un bel po'. Ci abbiamo messo, per registrarlo effettivamente un mese circa di studio. Però c'è stato un buon anno dietro di preparazione. Di lavoro. Sì, sì, sì. E il lavoro è fatto, volevo chiedervi questo, i pezzi dal vivo, quelli nuovi, li provate proprio sul palco oppure sono cose al di fuori del palco? No, e quando abbiamo i pezzi nuovi abbiamo deciso appunto da quest'album qua di non proporli se prima non c'è il CD, cioè proprio di proporli alla gente quando esce quando il sono CD. Perfetti. Perché altrimenti anche per noi appunto diceva Michele, noi questo disco comunque sono canzoni che facciamo già da più di un anno, quindi proporle... Un anno prima dell'uscita del disco, la gente poi, nel momento in cui esce il disco, appunto, sembra un disco di canzoni vecchie. Cioè, ho capito. È più bello tenere la sorpresa, no? Dare perché qualche volta capita che i pezzi nuovi vengono provati live, hai capito? No, noi non proviamo niente. Provati live, cioè, no, fatti sentire la gente. No. Era un errore che abbiamo fatto all'inizio. Ho capito. Ma perché non avevamo la possibilità di gestire tanti brani, più brani, no? Adesso avendo la possibilità di avere tre album, ve li conservate, giustamente. E il discorso cambia. E comunque abbiamo notato proprio con l'ultimo album che è molto più bello proporre live l'album, cioè presentare l'album piuttosto che aver già suonato gli stessi brani magari sei mesi fa, un anno fa. Prima ancora di avere il disco è più soddisfacente, è più bello e poi la gente sente i brani nuovi e più contenta di acquistare un disco con dei brani effettivamente nuovi, certo. Per il suo orecchio perlomeno. Benissimo, adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Che traccia c'è, Marco? La numero uno mi pare, traccia numero uno, vuoi presentarla, Elisa? La traccia che apre il disco è Eden. Che è una traccia molto forte per dare uno scossone, bene. Sì. Sentiamo e poi ne parliamo, ok? Certo. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. gioco dell'ingenuità, pronti a vedere sane verità. Occhi di fuoco dell'ingenuità che non crede possano esistere luoghi migliori da raggiungere e assaporare come dolce idea. Posti da sempre immaginati che serviranno alla speranza di chi vola via. Sboccia piano quel pensiero strano, strano, non mi va. Radio Veneto Rock. Eccoci qua, sì, mentre andava il pezzo, Marco, io e, e Michele parlavamo del nuovo disco dei Van Halen. L'hai sentito il nuovo di Van Halen? No, non l'hai sentito. T'ha un po' scosso, vero Michele? Sì, perché qualche chitarra assomigliava, c'era qualche input così nell'area dedicato vicino. Beh, ai Van Halen. Adesso paragonare... No, chiaramente no. No, però c'era qualcosina forse. Hai sentito il nome di Van Halen? Ti piace? Certo che ce l'ho. Chiaramente l'hai comprato immediatamente appena uscito. Sì, sì, no. Più che altro non immaginavo che. Cioè, anche perché era un pezzettino. Era un po' di anni che non faceva qualcosa. Pensavo che facesse un dischetto. Schizzato, va bene che si va presto a schizzare nelle classifiche americane adesso, però è schizzato ben alto. Sì, sì. No, ma pensavo che fosse arrugginito, ma il disco no, non è tanto arrugginito. No, adesso farà una tournée, eccetera, un sacco di cose interessanti. Che poi se hai sentito adesso sul. Singolo che gira è più soft dell'album, sì, perché esattamente il resto del disco è bello pestato. Sì. Beh, ritorniamo a questo pezzo che era bello pestato, anche questo è traccia numero uno, deve aprire. Spaccare chiaramente. Come mai l'idea di spaccare così potentemente, se mi è consentita l'espressione? Francesco vuoi dire, vuoi dire qualcosa, Francesco? Dai. Assolutamente sì, perché lui spacca sempre, quindi ha voluto spaccare. Sì, io spacco sempre. No, l'arrangiamento l'hai fatto te, l'idea è partita da te di questo pezzo. Boh, non me lo ricordo, forse sì, credo di sì. Sì, ma io parlo di punto di vista musicale, i testi li scrivi te, i testi li scrivi Elisa. Alcuni sì, alcuni no, alcuni li scrivo io. E la musica le ha fatte insieme praticamente? La musica quasi... parecchie cose le faccio io, poi però ovviamente le proviamo assieme. Poi la band nella sala prova e dice, per noi va bene, per noi non va bene. Come si fa democraticamente a decidere, ad accettare i consigli di Michele, ragazzi? Si accettano e basta. Se ne facciamo una ragione, poi la mia è una dittatura. No? Diciamo che è un po' regime. Cioè, cosa vuol dire regime? Adesso abbiamo democratico, un po' o no? di sindacati e siamo in trattativa per il resto. In ogni caso, praticamente sì, lui fa il canovaccio musicale e poi voi entrate dentro nelle parti vostre praticamente. Poi è una cosa di gruppo, chiaramente. Certo, cioè non è adesso stiamo scherzando, ma fare un pezzo non è semplice, ci vuole un certo... No, più che altro io porto l'idea fondamentale se ce l'ho, E poi si modificano le cose, si vedono un po' di passaggi. Per perché la batteria, io Negramaro. Già... Perché io Negramaro, ho fatto tutto io. E la voce di, la voce di Elisa, come si inserisce un pezzo tuo o in pezzo? Quello è un po' più problematico. Che fatica. È più fatica. Sì, perché lui le pensa con la voce maschile, chiaramente. Certo, chiaramente sì. Quindi a volte la tonalità va adattata, vanno cambiate le melodie, a volte anche le parole, perché comunque la mia voce si presta magari a determinate vocali e meno ad altre, mentre magari la sua al contrario, quindi bisogna cambiare dei pezzi di testo. Ma tu suoni anche la chitarra elettrica? Sì, faccio stasera delle parti ritmiche, chiaramente. Delle parti ritmiche occasionalmente, comunque non sempre. E che importo, cioè, abbiamo già parlato della... del discorso di Francesco, del suo apporto notevole, e un pezzo simile dal vivo che apporto può dare Francesco? Questo spacca tutto. In che senso? Cioè, cosa vuoi sapere? Voglio sapere come si presenta, che performance può fare un pezzo simile, Francesco? La macchina che è una traina, macchina. Certo. Perché devi dare vigore, devi aprire il disco. Praticamente. E poi questa canzone è una delle più cadenzate, insomma, ha molto bisogno di batteria. Quando l'hai provata, visto che sei da poco nella band, quanto l'hai provata per arrivare al top giusto? Diciamo che... parecchie volte. Questa sì. Perché mi hanno detto i ragazzi a microfono spento che in pochissimi mesi, in pochissimi giorni, tu hai praticamente imparato tutti i dischi loro. Sì. E non è mica semplice. Due dischi e più già due o tre tracce dell'album nuovo che erano già state buttate giù prima del mio arrivo. Sì, è stata una sudata, però tanta passione, tanta voglia, appunto. Vuol dire Michele aveva visto giusto allora, praticamente. A quanto pare sì. Io avevo visto giusto. Avevi te, io adesso mi prendo i meriti stavolta. Io non l'avevo considerato. Perché com'è la storia, praticamente? Tu l'avevi visto, l'avevi sentito, lui parlava di una band che aveva precedentemente. No, ma io non l'ho considerato, non perché non fosse bravo, per un solo motivo, perché noi abbiamo qualche brano che viene usato spesso il doppio pedale. Parliamo per quelli non tecnici, cos'è il doppio pedale praticamente? Cioè il doppio, se ho capito io. Sì, praticamente la gran cassa viene battuta con due piedi. Perfetto. Anziché uno. Ok. Ecco, e questo gioco era abbastanza fondamentale in alcuni brani, soprattutto degli album vecchi. Che era una vostra caratteristica praticamente. No, che più che altro se fatti con una batteria classica, cioè con un sistema classico, non avrebbero reso nello stesso modo. E praticamente lui già usacchiava il doppio pedale. Quindi già sapeva fare questo così. Usacchiava. Cominciava. Lo usava, ce l'aveva, ma era optional. Invece dopo è diventato. E quindi io ero partito con l'idea di trovare un batterista che avesse queste caratteristiche, che già sapesse usare il doppio pedale bene, no? E poi alla fine, dopo varie prove, perché abbiamo provato più di qualcuno, ne abbiamo provate, sì. Più di qualcuno. Li ringraziamo anche. Ringraziamo tutti i batteristi che hanno fatto una prova con noi, che sono resi disponibili. Perché... Esatto. Lei mi fa: ma perché non chiami Francesco? E faccio, la botta ce l'ha, il tiro ce l'ha. Proviamo. È andata bene. È andata bene. Ottimo. Sono le 22:41. Adesso è l'ora. Innanzitutto facciamo una cosa molto semplice. Salutiamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco. Grazie a lui stasera siete qua. Sì. Ciao Alberto, grazie mille. E salutiamo anche la Nicoletta, che è la nostra ascoltatrice, che ascolta sempre molto frequentemente Rock Wave del mercoledì. Suoniamo qualcosa adesso. Che cosa, Elisa e company? Vi suoniamo il nostro cavallo di battaglia del primo album. Andiamo indietro nel tempo. 2000 e quanto? 2004. Nicoletta, tieni duro. Non spegnere la radio, stai con noi. Come si dà? Si intitola Chiedo. Perfetto, ok. sogno normale di stare in arte, guardarsi intorno, di isolare la mente dal mondo. Io cambio dimensione, provo un discreto piacere se mi isolo da socializzare inebrio. I sensi che stringo tra i denti con un atomo di rock, chiedo un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce, chiedo un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce. Cosa avrei da dire del mio viaggio segreto intorno, di quello che vedo ogni giorno? È meglio tacere, inghiottire ed ascoltare senza farsi notare, sempre lontano dallo sguardo della gente, con un atomo di rock, chiedo un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce, chiedo un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce. Sono immerso in un atomo. Appeso al centro del mio mondo. Ti guardo da qui. Vibro e risalgo dal fondo. Vi osservo dal fulcro del mio spirito. Un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce, chiedo un attimo di pace, chiedo, lo chiedo ad alta voce, chiedo un attimo di pace, non riesco a sopportare nemmeno questa luce, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo, chiedo. Non riesco a sopportare nemmeno questa luce. Ok, bene, un pezzo quasi funky, ragazzi. All'inizio era proprio funky, bellissimo, a me è piaciuta particolarmente. E ripeto, c'è sempre il gioco tra il basso e la chitarra, è proprio funky, assolutamente funky all'inizio, poi un po' no. Ma proprio quell'idea del funky poi un po' no. Molto significativo. Cosa dici, Francesco? Sei d'accordo che era funky? Infatti è una delle mie canzoni preferite. È molto bello questa, veramente trascinante al massimo. Soprattutto per me che sono nato insomma ascoltando i Red Hot Chili Peppers, che appunto, sono molto funky. Poi un crossover secco, esatto. Assolutamente sì, sì. Poi di Red Hot Chili Peppers poi li citeremo in una certa maniera fra un quarto d'ora, ragazzi. State attenti, sempre all'apparecchio. Se bello, posso dire, dimmi. Scusami, Maurizio. Dimmi, vai, Francesco. E questo è proprio il brano, cioè il nostro un po' cavallo di battaglia. Lanciate il pubblico, quindi lanciate la platea così. Michele mi correggerà, ma penso sia il primo brano che lui ha scritto. Per i nuovi Naif. Sì, per i nuovi Naif. Sì. Bello, quindi, bello, molto bello. Tra l'altro, questo brano qua è stato portato dai Team Tour. È andato anche in finale. Parlami un po' un momento di questo concorso, di questa vostra questa partecipazione, dai, che è una cosa interessante. Vai. Partecipazione. Vuoi parlare tu, Elisa, per favore? Che io non rimembro. Abbiamo partecipato al Festival di San Marino, che ahimè credo non lo facciano più adesso. quanto tempo fa? 2004. Sì, inverno fra il 2003 e il 2004, sì. Abbiamo portato Chiedo, si poteva portare una canzone sola, edita o inedita, non aveva importanza, abbiamo scelto di portare una canzone nostra, non eravamo in tanti ad avere fare musica propria. Questa è una cosa molto importante, sì. Fare musica propria, nonostante tutto, perché adesso tutti fanno musica e qualche volta non propriamente vicina agli originali, un po' copiato, un po' tutte cover esattamente. Ci come stiamo non abituando è ad ascoltare sempre le stesse cose. Questo è vero. Quindi chiedo, era un pezzo assolutamente originale. Sì, tra l'altro non c'entrava niente con tutto il resto, perché erano tutti abbastanza sullo stile, cioè comunque pop italiano, sì, pop italiano puro. Noi siamo arrivati, abbiamo proposto Chiedo, la gente è saltata dalle sedie. Siamo arrivati in finale, eravamo più di 1000 gruppi, siamo arrivati tra i primi 25. Bravissimi. E ci siamo fatti onore, insomma, alla faccia del nostro rock che spaccava rispetto al resto. E quindi di diritto abbiamo suonato a una serata del Team Tour a Trieste e abbiamo suonato su un palco gigantesco, è stato bellissimo. Prima di Irene Grandi, prima di comunque di artisti abbastanza fermati, famosi, sì, sì, sì, sì, prima sì, della Casey and the Sunshine, sì, che faceva funk al 100%. Bellissimo, sono stati pensa, cioè, umilissimi, la differenza di qualche tra gli altro artisti italiani e quelli stranieri. C'è un abisso, vero? Sì, un abisso, perché il pomeriggio seduti nella piazzetta, nella piazzona di Trieste, eravamo lì a provarci un attimo i pezzi, certo, a accordare le chitarre, così non sapevamo che fare. Sono arrivati loro, si sono seduti con noi per terra e abbiamo suonato e cantato una buona mezz'ora insieme. Una jam session praticamente. Sì, sì, con questi personaggi che non sono proprio che noi non gli ultimi arrivati. Che noi non conoscevamo, tra l'altro. Sì. Poi quando l'abbiamo visti salire sul palco, che noi avevamo i pass, non eravamo dentro, certo, avevo suonato il pomeriggio. Ho detto, dei mostri però. Ho detto, hai visto chi sono questi? Sì. Un altro modo di interpretare la musica, eh? Un altro feeling, un'altra suonavano con due batterie loro, tra l'altro. Con due batterie. Sì. Vabbè, una storia. Corpo di ballo, un corpo anche di ballo, erano mostruosi, mostruosi. Erano mostruosi. Bellissimi. Erano funky, assolutamente funky. Loro erano proprio la loro tipologia, il funky. E questo pezzo, tu hai detto che circa 10 anni questo pezzo, 7-8 anni, no, praticamente, 2004. Sì. Non lo potete riproporre, non so, in chiave, non so, un po' diversa, che potrebbe essere un pezzo che vi potrebbe dare anche una spinta ulteriore, o no? O l'avete dimenticato volutamente? No, vabbè, noi lo proponiamo quasi sempre ai concerti, nella versione originale, comunque rock però funky. ci penseremo a è questa una cosa, cosa interessante, secondo me. Dopo ne parliamo, ci dai. Ecco, ho avuto questa idea perché mi è piaciuto, io non l'avevo mai sentito prima, è la prima volta che lo sento, mi è piaciuto particolarmente subito. E dovete sapere, cari ascoltatori, questa è la versione acustica, quindi sì, quella elettrica sarà ben più potente, più cadenzata, più funky. Anche qui abbiamo tagliato un pezzettino. Avete tagliato un pezzettino. No, è stata una bella sorpresa pezzettino anche per noi. Come risultato. E che Francesco non si può fare, non può fare tanto movimento, cioè un po' con qualche rumoretto, ma basta. Anche perché nella parte centrale di questo brano c'è proprio una bella parte col doppio pedale che dicevamo prima, che entra nello stomaco per sì. Bello, bello, interessante. Questa sera non potevamo farlo suonare col cimbalo. Il doppio pedale. Il doppio cimbalo. Cioè l'oveto stasera, basta. Ma non importa, c'è sempre qualcosa. Si sente lo stesso. La voglia di suonare esiste anche se c'è un oveto e ci sono due chitarre acustiche e un basso. Cosa vuol dire? La forza è sempre quella. Quando c'è la voglia. Dimmi, parla al microfono, Francesco. Vengono per noi due. Motivo in più perché i fan vengono a sentirci. Esattamente, motivo. Quindi è il cavallo di battaglia questo pezzo, assolutamente. Sì. L'epoca del 2004, cosa c'era? Dal punto di vista musicale, che pezzi c'erano all'epoca del 2004, Elisa? In che senso? Cioè, erano su questo stile oppure per no? Per noi Naif? Sì, per voi Naif. Lo stile era questo, anche se effettivamente ascoltando l'album La scatola del tempo si sente la differenza. Sono proprio metà canzoni scritte da me e Francesco e metà erano quelle scritte da Michele. Si sente proprio che, almeno secondo me, insomma, che arrivano da due gruppi diversi. Diversi, due anche se diverse. Effettivamente siamo riusciti ad amalgamarle insieme, sembrava appunto destino che dovessero finire nello stesso album. Che dire. Questa è quella più forte comunque del disco. Le altre sono un po' più tranquille. Ma l'epoca, quel disco era prodotto da qualcuno? No, da noi. Da voi, sempre. Sempre noi che sborsiamo. Esattamente. Per noi è importante comunque, non potremmo rinunciarci. Cioè, scriverle, suonarle, poi tenerle in un cassetto o chiuse in sala prove. Ma tu giustamente hai detto all'inizio di trasmissione, questo nuovo album è stato autoprodotto da voi perché c'è la libertà di volontariamente fare come potete far voi. Certo che un produttore può essere anche positivo, però deve essere un produttore grosso, però deve essere un produttore grosso perché altrimenti dà dei paletti, se non è vero. Sì, troppo. Può capitare. Ok, 22:52. Adesso, secondo me, Marco, ci dovrebbe essere la traccia numero 11. Cosa dici? Sì. Sentiamo la traccia numero 11, ragazzi. Mm-hmm. Da disco? Ok, benissimo. Poi la presentiamo. Sì. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. Lo so che qualcuno c'è che ci segue nel corpo e un'anima, e quello sguardo ci osserverà nel più placido buio di civiltà. Certamente ricorderò molti aiuti e le lacrime accanto a me, la memoria di qualcuno che resta dentro e non vola via. È in equilibrio tra sogno e realtà. È in equilibrio. Qualcuno c'è che ci segue nel corpo e un'anima, e ci ascolta e ci venera come forte, potente divinità. Certe volte sto meglio, sai, anche se la paura si genera. Preferisco pensare che questo è bello e non malattia. È in equilibrio tra sogni e realtà. Wave, l'onda del rock. Sì, è proprio l'onda del rock al 100%, perché c'è il rock. Il rock è la più bella cosa che esista. Il rock si fa tutto, rock a 360 gradi. A proposito di rock, sono le 22:56, è l'ora, Marco lo sa, è l'ora della scelta dei dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, è l'isola di Rockaway, è ben diversa. Visto che siete in 4, 4 per 3 fra 12, chi attacca? È una signora, facciamo attaccare dalla signora. Ecco, okay, beh, vai, come sempre. Tu puoi scegliere i pezzi. Allora, io porterei di Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Ah, un disco da quasi 20 milioni di copie. Un disco come che mai? Ho consumato perché... niente, è indescrivibile. L'hai sentito un sacco di... Io lo so a memoria, cioè... Ho imparato adesso, non esageriamo, comunque ho iniziato a cantare sul disco di Alanis Morissette, su quel disco lì in particolare, con il libricino in mano, mi leggevo le parole, sì, decisamente, e quindi è il mio disco del cuore, si può che dire. Non è un disco assolutamente rock, è un no, disco. No, però è particolare, sono molto particolari i testi, il significato dei testi non è per niente scontato. Certo. Parla di religione, sì, parla di sì, è veramente... alternativo, anche se non sembrerebbe. Poi porterai dei Muse, Origin of Symmetry. Ah, Muse, altro gruppo che ama particolarmente il nostro regista Marco, anche se stasera ha deciso di fare solo il regista. No, ma pensa... no, se no, devi parlare al microfono, non vuoi parlare al microfono. Stasera non vuole, in ogni caso lo sentirete venerdì prossimo alle ore 23, quindi al microfono. In ogni caso i Muse, Muse è un gruppo forte, notevole. Pensa che a me quel disco me l'ha dato un amico che mi ha detto... Non mi ricordo il disco che hai citato dei Muse. Origin of Symmetry. Ah, perfetto. È vecchio. E questo mio amico l'aveva preso, non gli piaceva, l'aveva preso così, non sapeva chi erano, non erano ancora famosi al tempo. È salito in macchina mia e fa, beh, tosto disco, secondo me ti piace, a me non piace, non lo voglio, e me l'ha lasciato lì. Io l'ho messo nell'autoradio e non l'ho più tolto per un paio di mesi, tipo. È stato sentivi in continuazione. Mi piaceva tantissimo, mi piace tuttora, insomma. E poi, da ragazzina ascoltavo i Green Day, ascoltavo Dookie, come dimenticare Dookie. Ah, l'hai visti? Mi diceva Francesco adesso, in questo momento. Hai visto dal vivo in Green Day? No, i Muse. Ah, i Muse ho visto dal vivo. Sì, sì, beh, anche Alanis più di una volta. Ah, bene. E cosa ti sono sembrati i Muse dal vivo? Sono una macchina potenti, da guerra. Sono meravigliosi, a parte... Marco, li hai visti i Muse dal vivo? Non li hai sono visto. Fantastici. A parte l'abbigliamento, che è un po' discutibile. Che abbigliamento aveva? No, beh, tralasciamo l'abbigliamento. No, sono veramente bravi. Hanno una forza, una potenza, il cantante salta dappertutto, suona la chitarra, il pianoforte con la chitarra addosso, canta nel frattempo, cioè sono mostruosi, bravissimi. E la Morissette cosa ne pensi? Dal vivo? Beh... Quante volte l'hai vista? Tre, quattro. Tre, però? Tra l'altro torna qua a giugno, credo, a luglio, sì, devo prendere il biglietto. No, devo prenderlo. Dimmi, cosa ti è sembrata lei? Beh, è fantastica, a me piace tantissimo... mi piace, non trovo un aggettivo per descriverla, è particolare comunque, è mistica durante i concerti. Bene, li hai citati tutti e tre? Sì? Sì. Ok, tocca a te Francesco, vai. Allora, come dicevo... Ah, ti sei anche scritto col computer, non è mica valida ste robe. Una volta non si usava il computer. Gli abbiamo dato troppo boccia, tempo. È tecnologico. Di memoria. Sai, Facebook, una volta Twitter. C'era la memoria, c'era un fogliettino di carta. Sei tu che sei vecchio adesso comunque. Ci sono i telefonini, c'è la tecnologia. E c'è un po' di... perde un po' di qualcosa su questo, però possiamo perdonare che sei giovane. Che abbiamo ancora la pergamena. Esatto, possiamo perdonare che sei giovane, vai Francesco. Blue Sugar Sex Magik. Ah, abbiamo citato i Red Hot Chili Pepper. Esatto. Ok, come mai questa band è così crossover in tutti il 100%? Un amico, ero molto giovane, un amico me li ha fatti ascoltare la prima volta e me ne sono innamorato follemente. Perdutamente. Sì. Ho iniziato a suonare la batteria proprio suonando dietro i pezzi dei Red Hot Chili Peppers. Sono andato a vedermi live nel 2009. Li hai visti? A Milano, sì. A Milano ti sono sembrati? Ero proprio nella transenna. Ah, proprio davanti? Ecco, sì. Hai urlato per tutto il concerto? Esatto, sì. Ottimo. Bellissimo. E eri giovanissimo, sei giovanissimo già adesso. Quanti anni avevi? Avevo 2000. beh, sei positivo. 4-5 anni fa. Cioè, eri giovane. Sì, okay. Sì. Poi? Wasting Light, Foo Fighter. Ah, Foo Fighter. Marco, cosa ne pensi di Foo Fighter? Ne pensi bene, sì. Beh, solo il primo album, dice Marco, di Foo Fighter. No, tutta la discografia. La discografia. Però questo album in modo particolare mi ha colpito perché me l'ha fatto scoprire un mio collega fonico, appunto, lavorando assieme. E da lì ogni volta che andiamo a lavorare, lavoriamo assieme. Fanno le prove con quello. Due volte alla settimana andiamo su in macchina, tragitto, e vola proprio la strada con questo album. Che tra l'altro ho scoperto che loro se lo registrano in garage proprio. Sì, ancora a nastro. Citami quello che hai detto precedentemente, microfono spento. Ho scoperto che appunto hanno registrato questo album in garage. Del cantante, e proprio i montaggi, gli spezzoni prendono e tagliano proprio col nastro. Una volta tagliano e cuciono. Marco conferma, ha confermato anche lui. Dimmi. E comunque la botta che hanno dal vivo è impressionante. Tu li hai visti dal vivo? No, non li hai visti. No. Mi piacerebbe però, tanto. Spero un giorno di riuscire. Sì, beh, ci saranno occasioni sicuramente. Li hai citati tutti e tre? Ne manca ancora uno. Manca uno. Vai. E il terzo è Mai una distrazione dei Naif. Ah beh, giusto. Ottimo. Perché, cioè, va bene, lo suono mi piace e tutto, però è veramente il mio primo, cioè, il primo album della mia vita che ho registrato e quindi me lo porterò avanti fino alla tomba questo album e quindi veramente per me è stata una cosa più grande di me da come ero partito a suonare la batteria, sono arrivato a un certo livello, ringrazio i ragazzi e che mi hanno dato la possibilità appunto di inserirti. Esatto, sì sì sì. Nostro bassista, vai Francesco, tocca a te. Francesco, il basso, vai, vai. No, comunque, è bello, bello, dimmi. Allora, i miei musicisti qua che mi conoscono da un pezzo sanno sicuramente che non posso lasciare a casa un disco dei Dream Theater. È un gruppo che adoro da... Dei Dream Team. Che album di Dream Theater? Lì è dura. Marco, tu... Vieni un momento al microfono. No, non voglio venire al microfono, però anche lui è un grosso esperto di quella band. Guarda, allora posso dirti... Dimmi. Beh, non saprei quale, ma porterei l'ultimo. Ah, ok. Del quale sono stato... Li ho proprio visti a Pordenone, proprio l'hanno presentato. Cioè, questo... Ha avuto un grande successo anche commerciale l'ultimo, decisamente. Sì, peraltro durante la loro tournée in Europa... E hanno praticamente sono dovuti ritornare a Los Angeles perché hanno preso un Grammy Award, sì, cioè un premio praticamente, un Oscar della musica in mezzo a Lady Gaga, in mezzo ai Foo Fighters, peraltro. Esatto, i Foo Fighters, non vorrei sbagliare, sì, sì, l'hanno, sì, preso, sì, sì, l'hanno preso anche loro. E sì. Quindi, insomma, l'ultimo album è A Dramatic Turn Events. Sì. Cioè, un insieme tra i vecchi Dream Theater e le cose nuove. Le cose nuove, sì. Cioè, proprio sperimentali. Quindi, loro sono straordinari, sono una potenza. E quindi, li ho visti almeno 24-25 volte. Ah, peraltro, anche li conosco. Ormai sì, ormai mi... Vanno a cena insieme. E non è una battuta. Vanno a cena insieme e quindi... C'è un fan accanito, insomma. Sì. Ma anche perché sono persone molto umili, per cui voglio dire... Nonostante che siano delle celebrità... Assolutamente. Il discorso degli artisti stranieri che sono sempre... Veramente, quando possono, cioè, non si... Non si assentano, insomma. Bello questo. Sì, questa è stata un'ulteriore scoperta straordinaria, insomma. Cioè, pensare che magari quelle persone, quel gruppo che ti piace, dopo magari si rivela quello che hai sempre magari desiderato. Chiaro, chiaro. Poi, secondo? Guarda, secondo io mi porterei In Your Honor dei Foo Fighters. Ah, quindi abbiamo sempre ho visto anche il tour di Your Honor e... da lì, insomma, una buona macchina da guerra i Foo Fighters. Sì, posso dire che ho visto con molto piacere e anche con tanta emozione Dave Grohl suonare la batteria in un pezzo, quindi mi ha fatto venire in mente che aveva un po' abbandonata. Mi ha fatto venire in mente i Nirvana, che sono stati in Nirvana insieme ai Guns N' Roses al tempo quando io e Elisa abbiamo cominciato a suonare assieme. L'hai preso in vinile Nevermind o in CD? Non ti ricordi? In CD? No, anzi, ti dirò la cassetta. Ah, in musicassetta. Sì, adesso non hai preso l'edizione del ritorno, l'edizione deluxe che hanno rifatto recentemente. Adesso posso dire, cioè, ho cambiato genere musicale, quindi, ma li ascolto sempre volentieri. E dopo, ultimo, ma non meno importante, per restare nel tema funky, mi porterei Absolute di James Taylor Quartet. Ah. Che è un live bellissimo, incredibile. Sì, cioè io almeno per, ma è un gruppo per la famosissimo dalle nostre parti, però suona all'interno di una sessione ritmica come nel caso mio o di Francesco. Di Francesco? E poter ascoltare proprio un vero funky, il vero e proprio acid jazz degli anni 70 che proprio ti fa è un gruppo molto importante, anche se non è famosissimo dalle nostre parti, però è molto quotato. Però ho parecchi dischi, cioè potrei citarti anche tipo a un osso duro di estimatori o altri Freak Power, sono bravissimi. Nel panorama funky ce ne sono una miriade veramente veramente belli. Ok, Michele, tocca a te adesso, finiamo il giro. Sì, allora io sarò più classico, essendo rocker di natura. Allora, io porto con me Led Zeppelin 4. Ah, perché c'è, visto che... No, gli ascoltatori non lo sanno, ma prima di entrare in trasmissione aveva fatto un accenno. Fammi un accenno, dai, per piacere, fammi un accenno. Non si poteva non fare un accento del classico, dei classici. Led Zeppelin IV. Ecco, questo perché praticamente me l'ha fatto ascoltare mio padre. E ho ancora il vinile che ha comprato lui praticamente quando sono nato io, nel 72. E praticamente forse è per quello che ho cominciato a suonare la chitarra. Ho capito. E poi altri due album che secondo me sono fondamentali sono... Back in Black degli CDC. Ah, ecco, ecco. Fermiamoci un secondo. Quante volte li hai visti dal vivo? Sì. Sì, quante volte li hai visti? Li ho ma, visti... ma lui suona solo da 30 anni sempre nella stessa maniera. Però lui, quando... secondo me, ha caricato con una chiavetta la susta. Come fa a suonare sempre nella stessa maniera 30 anni e sempre nella stessa posizione? È incredibile, è sempre vestito in quella maniera scolaretta. Ma guarda, che per lui per 2 ore e 40 non si ferma mai. Incredibile, è incredibile. Mai. Cioè, neanche quando è fermo dal suonare non si ferma. Spaventoso, è una roba spaventosa. È incredibile, anche perché insomma comincia ad avere una certa età. Certo, però l'energia è immutata. Ecco. Okay. E poi il terzo album è Master of Puppets di Metallica. Metallica. Metallica, io amo particolarmente solo il Black Album di Metallica. Io invece ho cominciato a smettere di ascoltarli dal Black Album. Ci sono stati dei pareri discordanti, anche se il Black Album è stato il successo colossale. No, ero indeciso se dire Black Album, perché Black Album diciamo che è stato un prodotto, un prodotto che hanno, perché quella volta avevano chiamato Bob Rock, certo, perché dirgli facci fare il disco bello, esatto, che vendiamo un sacco di copie. Hanno venduto milioni di copie. Esatto, prima erano i ragazzi grezzi che suonavano nel garage. E cosa ne dici della coppiata Luride Metallica? A me è piaciuto molto il disco, non so Marco cosa dici, tu non ti è piaciuto niente, no, lui non è piaciuto. Io, non lo so, li vedo due mondi. Perché ci sono state delle recensioni da 8 e delle recensioni da 1, proprio ci sono stati dei pareri discordanti in modo bestiale, come perché si dice. Perché sarebbe come mettere, che ne so, De Gregori con assieme agli Slipknot, che ne so, una cosa così. Però è un tentativo, cioè loro hanno tentato di andare col maestro, che tra l'altro compie 70 anni il 3 marzo, quindi fra pochi giorni, auguri a Lou Reed, però hanno fatto un tentativo. Sì, è un esperimento. È un esperimento, poi sai, chi piace, chi non piace, è un esperimento. Lou Reed ha sempre sperimentato tanto e ha provato con i Metallica. Loro hanno portato avanti il gioco e... Sì, forse anche perché loro un po' diciamo che la creatività l'hanno un po' persa negli ultimi anni. Sì, questo hanno è vero. Ho provato con gli ultimi album, però non è proprio. Non sono più come una volta. I soldi li hanno rovinati. Tanti soldi, tanti le soldi. Le idee sono andate a sfumare. Purtroppo sì, però capita. Ok, 23:10, abbiamo fatto una bella porzione di trasmissione, ma abbiamo ancora tempo fino alle ore 24. Non so cosa ci sia in scaletta, anche se questo non importa, però io voglio far sentire qualcosa dal vivo. A me non interessa la scaletta, qualche volta la facciamo come vogliamo noi. 23:10 e 23:11 in diretta, che cosa dal vivo? Vi facciamo un attimo. Un attimo, perfetto. Non in un attimo. Non in un attimo, attimo, chiaramente. Il suono dei tuoi passi per la tranquillità, con gesti disegnati e varie strane idee, riesco ad essere pura energia e comincio a sognare così. Quasi ad aspettare una nuova poesia. Qui trovo quello che non ho e così voglio entrare in un miracolo. Ma io qui trovo un'altra identità e con te posso costruire un attimo. Periodi alti e bassi si incontrano a metà. E l'aria a volte soffoca le cose tra di noi, ma poi rinasce un mondo nuovo, gioco che vuoi. E continua a sognare così. Quasi ad aspettare una nuova melodia. Qui trovo quello che non ho. E così voglio entrare in un miracolo. Ma io qui trovo un'altra identità. E con te posso costruire un attimo. Al bando l'incertezza e la mediocrità, messaggio con valore, diritto al cuore. Sensation finale, appunto, mi pare giusto che sia fine questo lungo, questa coda. E farmi un secondo quel giochetto che facevi con l'acustica? Questo? Sì, proprio quello. Quello facevi con l'elettrica, poi sì, viene molto più però è bello, ma molto interessante. Questa era una ballad, possiamo dire, una ballad, Elisa? Sì, del primo disco, la canzone, la ballad del primo disco. Si intitola Un attimo, anche questa naturalmente, come avrete sentito, come tutte le nostre ballad, parla d'amore. Beh, mi pare giusto. Parla di una convivenza, è stata ispirata da due nostri amici che sono andati a convivere e quindi è nata l'idea. È nata così l'idea. Sì. Poi ho notato una cosa molto bella, i due Franceschi si sono accordati in un momento, arrivo fino a un certo momento, poi comincio, era così. Che i nostri ascoltatori non hanno potuto vedere, ci sono le telecamere, ma in un momento preciso del battito del basso, e poi tu hai ricominciato a muovere il lovetto, e chiaramente non avevi la batteria, però anche questo è positivo, e siamo tutti in acustico. Dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che i pezzi li avete provati qualche giorno fa. All'ultimo secondo, è difficile riproporre in acustico pezzi che sono elettrici, o no? Sì, hai altre dinamiche. Hai altre dinamiche. Quindi più... c'è una, uno studio ancora più profondo, una ricostruzione, possiamo dire questo? No, più che altro ci sono delle partiture che sono belle da ascoltare con i suoni elettrici e con l'acustica sarebbero non rendono allo stesso modo. Anche se l'acustica è una bella cosa. Sì, però il brano pensato e creato con l'acustica è una cosa, il brano pensato e creato con l'elettrica è un'altra cosa. Ti dà degli spunti differenti che sono giocati sulle ritmiche e sull'effettistica anche, mentre nell'acustica ti usufruisci praticamente solo degli accordi, dei giri d'accordo e qualche abbellimento, ma non puoi sfruttare sicuramente reverberi, delay, distorsioni. Ecco, su un brano di 1 minuto e 15, vedi che mi sono ricordato, amico, 1 minuto e 15 c'erano un sacco di cose molto belle, dura 1 minuto e 15, è una folk ballad, un pezzo folk quasi. Adesso me lo accenni, dura 1 minuto e 15, chiaramente non ci sono le chitarre effettate e una chitarra normale. Ecco, proprio così, dura 1 minuto 15 per dare uno spartiacque praticamente nel disco. Era molto bello, io ai ragazzi ho detto, ma perché non lo allargate nei prossimi... Allora ho detto, ci sarà un secondo tempo, è una cosa positiva. A me è piaciuto particolarmente, per quello ho avuto questa idea. Anche lì, cioè... Dimmi, com'è nato quell'1 minuto e 15, Michele? Quell'1 minuto e 15 sono le mie, le mie prove. Le tue prove. Ma com'è stato... In studio, quanti riverberi ci avete messo? Che suoni avete? No, più di tanto non ci sono tantissime, cioè un riverbero d'ambiente, però ho sovrainciso credo 5 o 6 chitarre. Ah, ok. E quindi ci sono tutti gli abbellimenti con le quinte e in più c'è un solista sopra tutti gli arpeggi che lo rendono. Solista sei te praticamente, o no? Praticamente sì. Sì, esattamente. Sì. Quindi sì, quante chitarre hai suonato? 5 o 6. Non mi ricordo esattamente. È che questo brano l'avevo preparato io, poi loro l'hanno sentito, è piaciuto e mi hanno detto ma sì, buttiamo. Sì, in realtà doveva essere l'intro per una delle canzoni dell'album, però era talmente bello che abbiamo scelto di dargli una parte della... Sì, di renderlo protagonista, sì, insomma, esattamente, dell'album. Una traccia a sé stante, sì. Avete definito il vostro sound deep rock. Che cosa vuol dire deep rock, Elisa? Chi è? Deep rock vuol dire esattamente rock profondo. Cioè, in che senso rock profondo? È nel senso che all'inizio tutti ti chiedono, ma che genere fate? Che genere facciamo? Facciamo rock? No, esattamente non è un rock. Fate punk? No, non è punk. Fate funky? No. Cioè, in realtà il nostro è un miscuglio di vari generi. È abbastanza spinto, è comunque non è mai scontato, ci piace cambiare, non essere troppo superficiali o comunque non fermarsi a dei giri banali, ci piace ogni tanto inserire magari la parte acustica appunto in un brano estremamente tirato, oppure quindi siamo un po' imprevedibili. E non trovando appunto un genere che potesse identificarci, esatto, ci siamo autodefiniti deep rock, che ci sembrava la cosa più adatta. Che cambiamento c'è stato da Velenoso 2007 a Mai una distrazione 2011? C'è stata una maturazione al di là del cambiamento di formazione, nel suono c'è stata sicuramente con Mai una distrazione abbiamo cercato di essere un po' più professionali. Ma Velenoso era prodotto da qualcuno? Velenoso l'abbiamo registrato in sala prove, l'ha registrato Michele. Poi abbiamo fatto il master uno studio, però al di là dei suoni in sé, comunque proprio le canzoni richiedevano, erano un po' più grezze, se possiamo dire, un po' più... Dopo va a gusti, ad alcuni piace di più Velenoso, ad alcuni più Mai una distrazione. Comunque con Mai una distrazione cercavamo di allargare un po' gli orizzonti, nel senso che se Velenoso era... molto selettivo, molto alternativo, Mai una distrazione abbiamo volutamente cercato di renderlo più ascoltabile. Perché qualcuno dice che il terzo album è l'album della maturità, è l'album del passaggio, è l'album del percorso, del salto. Per noi, sei d'accordo? Adesso sì, per noi è così. Noi ci siamo messi a ragionare a tavolino prima di registrare questo album, ci siamo detti ok, cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare? e quindi di conseguenza poi abbiamo preso le nostre decisioni e abbiamo fatto delle scelte. Poi un critico ha scritto che è una scatola di adrenalina, assolutamente di adrenalina, è positivo, questo vuol dire una scatola che si che esplode, che esplode, poi però esplode sì, ma poi ritorna su certi versi, come abbiamo detto prima all'inizio della trasmissione, melodici, perché sì, la melodia più o meno viene sempre fuori. Sì, ci vuole. Ci vuole, alla fine è musica, cioè stiamo parlando di musica, e la musica deve essere musicale. Per essere musicale deve essere melodica, cioè, alla fine. Anche se Dimitri che... citando Dimitri qualche volta non proprio la melodia, sì. Beh, la anche melodia loro, però è la melodia loro, è chiaramente. Beh, hanno delle parti. Sei un grosso esperto e sai tutto. Tempo dei miracoli di Dream Theater, quasi. Beh, ma hanno delle parti melodiche sì, che fanno venire i brividi anche i Dream, cioè indubbiamente. 23 e 23, adesso abbiamo un pezzo che io ho messo su per due mesi consecutivi in scaletta, mi pare, vero Marco? La traccia numero 7. A me è piaciuta particolarmente perché è veramente una ballad, un pezzo pop, posso definirlo pop secondo sì, te? Sì, dai, ci sta. Non nel senso negativo, pop come popular, intendo questo. Lo sentiamo assieme e poi ne parliamo perché a me è piaciuto particolarmente, ok? Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Per lasciare il posto alla notte, fredda ingrigisce l'aria mentre una finestra sbatte. Gatti a macchie scure rincorrendo un'ombra fanno a botte. Specchi ormai opachi non riflettono nemmeno una fioca luce. La mia reazione fa molto male. La voglia di andare matura all'istante, ma resta il timore. Gira intorno al mio pensiero, che non si limita a quel tortuoso sentiero. Gira intorno la mia anima, che non si limita e vede grandi città. Giorno si nasconde una voglia un po' ansimante, pronta a scaturire nuove gioie un po' controcorrente. Nervi saldi e rabbia insana dentro la stessa notte. Lento vola quel profumo di nuove luccicante. La mia reazione fa già capire che quello che voglio è una nuova occasione per ricominciare con un grande sole. Gira intorno al mio pensiero, che non si limita a quel tortuoso sentiero. Gira intorno alla mia anima, che non si limita e vede grandi città. We'll be right back. Blu Radio Veneto Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. Ripetiamo il titolo, Elisa. Oh mamma, mi trovo impreparata. No, hai solo messo la cuffia, non c'è problema. Sì, a venire. Ecco, parlavo con Michele prima il pezzo andava. La famosa rivista. Che era, esatto, beh sì, è un giornale. Okay. E praticamente che il pezzo era molto scheletrico, non era così abbellito. Poi l'idea di abbellirlo così, Michele, come ti è venuta? O come è venuta a tutti quanti? No, mi sa che è venuta più all'Elisa. Più l'Elisa. Cosa, perché io avevo praticamente, i brani erano già stati preparati, a parte questo. E quella strumentale appunto tra le mani, che è quella che ti ho accennato prima, certo. E che non doveva entrare nel disco, e sono arrivato con l'idea di questo brano praticamente solo con gli accordi base in prima posizione e il testo. Però effettivamente non ha, e poi c'è la parte finale che è tutta quanta arrangiata, però sotto senti, cioè, se senti bene c'è un'acustica che lavora, che fa un giro un giro ok. Ero arrivato così praticamente, con i giri base e la parte finale, basta. E poi Elisa si è messa a lavorare in studio con i violini, con tutte queste cose, ed è venuto fuori. È stato un bel pezzo. È stata stravolta, sì, da quello che doveva essere. E parlavamo sempre al microfono fuori onda, è un pezzo che vi... Sì, è dentro il disco, non è propriamente un pezzo del vostro repertorio, sì, perché l'avete scritto voi, però è leggermente fuori dal trend vostro, ma è positivo. Qualche volta si deve anche cercare di inserire cose non prettamente del trend. Certo, anche perché vabbè, alla fine al di fuori della nostra portata live, nel senso che non potremo mai proporlo. La potete proporre elettrico o no? No, cioè la sua bellezza è proprio, esatto, sarebbe, dovremmo proporlo con delle basi, ma io sono un po' contrario, mi piace suonare tutto quando facciamo i live. E in questo senso è al di fuori della nostra portata, però fa parte della nostra musica, comunque cioè gli arrangiamenti alla fine li abbiamo tirati fuori noi, è un pezzo che a noi quattro piace tantissimo, esce comunque da noi, dalle nostre emozioni, quindi non è rock, decisamente non è rock. È una ballad pop, però ballad. Io credo che si senta comunque che è Naif. Sì, Naif, sì, è il vostro marchio, cioè, e a proposito di marchio, diciamo una cosa, innanzitutto, se avete un sito, che sito avete? Come si chiama? www.naif.org.uk UK. Cosa si può trovare dentro il sito? Tutto quello che volete, l'abbiamo rinnovato, sistemato, aggiornato, ci sono foto, ci sono le nostre interviste in radio, metteremo presto anche questa, così bene, chi vuole potrà scaricarla. Ci sono i link per le nostre pagine, Facebook, Twitter, via dicendo, ci sono tutte le informazioni, le nostre email. Se uno vuole contatti, acquistare il vostro disco fisicamente, lo vuole? Beh, ovviamente i nostri concerti, cioè, ne trova. E poi su iTunes. Lo trova su iTunes tranquillamente. Chi ha suonato nel disco oltre a voi? Chi vi ha dato una mano? Noi. Voi assolutamente. La copertina chi l'avete fatta voi? Noi. Avete fatto tutto voi, perfetto. No, pensavo dimmi Francesco. Ha scritto le canzoni lui. Ah. No, dicevo, vi ha dato una mano qualche fonico, questo voglio dire, fuori del vostro progetto. È lui è il fonico, vorrei dire. È Francesco. No, beh, sicuramente il disco suona in questo modo, perché siamo andati in uno studio con un fonico molto bravo. Infatti, e dobbiamo Marino De Angelis. Ecco, questo volevo dire, questo. Sì, fonico. Che è sicuramente un fonico valente, con la F maiuscola. E noi siamo andati là praticamente con un disco di un gruppo americano che forse si chiama i Creed, sì, ok, certo. E mi piacciono molto i suoni che usa Mark Tremonti. È un po' di tempo non fanno un disco i Creed, l'altro anno, ecco. però Mark Tremonti suona anche con gli Alter Bridge, quindi è sempre impegnato. Certo, sempre. Quindi hai fatto questo metodo di paragone, questo suono di Creed. No, diciamo che lui ci aveva chiesto un disco da seguire, diciamo, come riferimento per fare le compressioni, certo, il mastering e tutto quanto. E io gli ho portato, ho portato su un disco, questo disco di Creed, e abbiamo cercato di seguire una linea per quanto riguarda i suoni, le timbriche di batteria. ecco. È nato così il discorso del discorso del suono della sonorità. Sì, del suono della sonorità. Poi volevo dire il discorso per quanto riguarda il discorso del disco precedente, sì, che è velenoso. È stato usato, sono stati usati molti più effetti sulla voce rispetto all'ultimo, perché si è curata di più la parte appunto melodica della voce e si è cercato di effettare il meno possibile le voci, insomma, per renderle più naturali possibili. Ho capito, ecco. Questa è la differenza, insomma, praticamente, sì, rispetto al lavoro precedente. Sì. Quindi, a proposito di lavoro, questo è uscito nel 2011, se avete delle date da far sentire ai nostri ascoltatori, date già preordinate, c'è qualcosa? No. C'è qualcosa nell'aria. Sì. Forse una possibile data al Garage Club di San Martino di Lupari, che tra l'altro consiglio vivamente... È un locale interessante. Molto interessante, perché propone proprio musica, gruppi che fanno musica propria, quindi... Il 7 aprile. Sì, appunto, saremo là molto probabilmente. Quindi presentate questo disco, chiaramente anche qualcosa di vecchio, ovviamente. Sicuramente. Tutto il repertorio vostro. Il repertorio... Quanti pezzi dal vivo fate nel repertorio, oltre al disco nuovo? Una ventina di pezzi. Quindi un'oretta e mezza buona, abbondante. Sì. Un'ora e mezza sicuro. Qua ne abbiamo fatto due quasi. bene, positivo. Tutto rigorosamente a metronomo. Non so come faccia lui a suonare, mi sono sempre chiesto. Sì. Tutto, cioè fare un'ora e mezza col beat della testa. È perfetto. Ma è giovane, bravo. Sì, no, finché non si distrugge le orecchie va benissimo. Però, ok, 23:33, abbiamo circa mezz'oretta. Abbiamo deciso di fare una cosa. Innanzitutto suonate un pezzo e poi scegliamo un'altra traccia dal disco. Che pezzo volete suonare adesso? Quello che volete. Io rovino un po' le scalette, ma è la caratteristica del programma. Se dimmi, Francesco. Una cosa, prima del pezzo, io volevo pubblicamente ringraziare Francesco, certo, perché da quando è entrato con noi, proprio secondo me, ma anche secondo Michele Delisa, proprio i nuovi Naif hanno una spinta in più. Una spinta in più, anche si sente che le canzoni respirano in una meravigliosa che sviolinata. Non piangere, dai. No, sto dicendo così perché sono a piedi con la macchina, se dopo mi... per quello il motivo è questo. Grazie. Ok, sentiamo che cosa, Elisa, adesso. Prigione di parole, cosa dite, ragazzi? Sì, prigione di parole. Ok. Da dentro un labirinto di frasi accartocciate bene, cerco di risalire con le mie mani nude. Accetto la proposta, ma poi mi pento. L'inganno mi ha confuso e accetto il danno. Quanto fumo nel destino, piatto caldo ma è un veleno. Quanto fumo nel destino, quanto fiato già sprecato. Questa non è la mia realtà, ma poi dov'è la libertà? Speranza e reazione, da dentro una prigione. Questa non è la mia realtà, ma poi dov'è la libertà? Speranza e reazione, da un incubo infernale che... chissà se finirà. Ribatto e poi mi batto, ma quale soluzione? Rimane in posizione, fatico a contestare valanghe di opinioni, discordie molto gravi. Vorrei poter scappare da questa situazione. Quanto fumo nel destino, piatto caldo ma è un veleno. Quanto fumo nel destino, quanto fiato già sprecato. Questa non è la mia realtà, ma poi dov'è la libertà? Speranza e reazione, da dentro una prigione. Questa non è la mia realtà, ma poi... Allora, Elisa Verlich, voce e chitarra, Michele Schivo, chitarra, solista e cori, Francesco Capellozza al basso e il nuovo entrato, quindi Francesco Tofano alla batteria. La registrazione è stata fatta del disco nel tuo studio praticamente, Francesco? No. No? Non è? Sbaglio io? No. No, allora non è così. Ho una informazione sbagliata. È una pre-produzione, ecco, l'informazione vera è la pre-produzione. Okay. In ogni caso il pezzo che abbiamo sentito era un pezzo molto divertente, molto accattivante. È sempre il ritornello che entra dentro in testa. È una caratteristica tua o vostra, Elisa? Quella di... ci proviamo. Vito, provate bene, però è positivo, decisamente. Grazie. Abbiamo detto che suonare acustico è un po' più difficile rispetto a suonare elettrico. Che potenza e energia date in questo pezzo quando salite sul palco? È uno dei pezzi più potenti, col ritornello potente che prende immediatamente la gente, fa muovere la gente, oppure no? Sì, sì, forse. Io non lo so, dico la verità, non lo so, perché quando faccio questo pezzo io mi muovo come una matta, cioè nel senso, mi lascio un po' prendere, a volte ci sono dei pezzi che mi lasciano, che mi portano via con loro e io non mi rendo più conto di dove sono, di chi ho davanti di solito. Questo è uno di quelli, io sono davanti al microfono, ho il pubblico davanti, però in realtà non me ne rendo conto, quindi sinceramente non lo so, non so nemmeno come mi comporto io. Ho capito, mi entra dentro, è una di quelle canzoni che quando ho bisogno di sfogarmi è proprio quella giusta. Il pubblico vi chiede... Se conosci i pezzi, quasi sicuramente li conosci i pezzi, vi chiede dei pezzi da far sentire, da far suonare, perché li ama particolarmente, succede questo? Ma ci chiede dell'ultimo disco, sicuramente Furba America. Certo. Ci chiedono tantissimo Gioco Distratto, che abbiamo ascoltato, esatto. Degli album precedenti. Dimmi. Anche Nuvole di Ghiaccio. Anche Nuvole, giusto, sì. Nuvole di Ghiaccio è quella che ha colpito per prima. Dovete ancora farla per Nuvole di Ghiaccio? Sì, ve la facciamo sentire dall'originale, dal disco. Sì, perfetto, sì. Poi degli altri album, Un Attimo, che è quella che avete sentito poco fa. Certo. Chiedo. Dimmi. Chiedo. Ah, Il Regno dei Giganti, giusto, di Velenoso, è la canzone di chiusura del secondo album, sì. L'idea di fare tre album, cioè questo è il terzo album, dopo Velenoso, l'idea di fare un nuovo album era già cominciata oppure è una cosa che poi avete lasciato perdere per un periodo di tempo? Eravamo un po' demoralizzati dopo Velenoso perché siamo rimasti senza batterista, quindi per già problemi, una perdita importante. Sì. Dovete ricominciare tutto da capo o no? Quasi. Quasi. Sì. Poi è arrivato lui, il Salvatore della Patria, forse. E ci siamo rimessi in carreggiata, sì. No, è stato pure... Dimmi, Francesco. Per quanto riguarda adesso Michele, voglio dire, lui sta già pensando a brani nuovi nelle sue... È una fucina continua, sì. Non si ferma mai. È proprio... Lo fermate voi nel senso positivo del termine, quando i pezzi non sono validi, ma sono tutti validi quelli che scrive lui. Riusciamo a fare qualcosa? Dice no, dai, qualcosa è stato... è stato tagliato. Qualcosa l'abbiamo scartato. Sì. Anche qualche parte l'abbiamo bella tagliata. Ma è giusto. Vabbè, si lavorano spesso... insieme. Poi io ascolto anche tanto Dream Theater, no? Ecco. E quindi sono anche... Ma tu non sei un po' progressive, non c'è progressive nel disco. Però qualcosa. Qualcosa qua e là. Il problema è che io ascolto tante cose e soprattutto Dream Theater sono abituati a buttare dentro parecchi giri di chitarra differenti e cerco un po' di autofrenarmi. Poi si sa che i chitarristi devono sempre essere protagonisti, devono sempre avere l'ultima parola. La chitarra parola. È sempre troppo bassa. Succede sempre così, alziamola sempre di più. A discapito degli altri? No, assolutamente. Che discorsi. Mi pare che nell'ultimo disco la batteria la faccia da padrone, Dovevamo dare spazio a sto bravo ragazzo. Che ha dato, come giustamente Francesco ha detto prima, ha dato un impulso di giovane età, questo è chiaro, visto che sei metronomo, un'ora e mezza da metronomo è mica semplice. Ci proviamo, dai. Poi c'è anche un basso sotto che pulsa. Che grunisce. C'è un'altra cosa da dire. Dimmi. Ho trovato un partner non da poco, la fase ritmica è fondamentale. Ma subito dopo la seconda prova di lui noi siamo gli Starsky Hutch. Benissimo, adesso facciamo una cosa di questo genere. Se Marco è molto bravo, scegliamo un'altra traccia dal disco che abbiamo sentito prima. Ti ricordi che traccia vuoi mettere su adesso? Sì, io vorrei far sentire Nuvole di Ghiaccio. adesso vediamo che traccia è, è praticamente Nuvole di Ghiaccio. Perché? Perché un pezzo che è molto amato in concerto. Sì, sì, lo dedichiamo a tutti i nostri fans, che alle stanno persone, ascoltando, sì, anche via internet, stiamo sì, ricordando. Quindi. E, sì, a Tamara, Carletto, Annalisa, Maurizio, Luca, Zorcio e Little Cherry on the Cake. Avete proprio il gruppo praticamente. In fan particolare club, a loro che sì, ci seguono sempre, quindi li ringraziamo e dedichiamo a loro Nuvole di Ghiaccio. Benissimo. Radio Veneto Rock. Ok Marco, Marco ci ha dato la linea, continuiamo adesso, abbiamo circa un quarto, no, circa 10-12 minuti e parlavamo del discorso della tua presenza scenica, come ti metti quando suoni, stia soli, e Francesco mi dice, mette il piede, no Francesco, sì, il batterista, mette il piede sul monitor, lo mette, lo tiene fermo e via, è così, ah, sì, Michele. Sì. Alla vecchia maniera. Alla vecchia da rocker. Per fortuna che ci sono ancora i monitor, perché ultimamente ci sono gli air monitor. Cioè cuffiette. Cosa vuol dire, Michele? Le cuffiette. Ah, le cuffiette, esatto. E allora... dove lo appoggio il piede? Esatto, ma con le cuffiette è capitato perde, che dimmi. È salito anche su qualche tavolo. Ah, è capitato che sei salito anche su qualche tavolo. Sì, quando mi funziona il ricce trasmettitore. Allora, il ricce trasmettitore. Il ricce trasmettitore. Perché adesso ci sono le cuffiette che sostituiscono i monitor, quelli sì. Per terra, ma non è più la come una volta, c'è più l'energia, cioè la bellezza di una volta, senza tutto elettronico adesso. Sì, purtroppo. Purtroppo, però più comodo chiaramente. Sì, ma non lo so, dovrei provarli, non li ho mai provati, quindi, però so che molti gruppi li usano ovviamente. Sì. Dream Theater appunto. Beh, Dream Theater sono sempre avanti. Sono sempre avanti tecnologicamente loro, Sempre, sempre. Infatti, però, dimmi. Vedi John Petrucci, che è uno alla vecchia maniera, siccome lui è abituato ad avere il poggiapiede, si è fatto fare due finti monitor per appoggiarsi col piede. Vedi? Cioè, la tradizione... Sì, sono praticamente, scusa se interrompo, due pedane proprio di acciaio che ai lati della pedaliera, quindi, perché ormai nei live comunque i monitor... Alla vecchia maniera non si usano più, siamo solo air monitor. Ho capito. Anche proprio per una questione. Ma tu che li hai visti 25 volte? Quante? 25 diverse formazioni, cioè non informazioni, cioè 25 diversi set. Te li ricordi tutti? È incredibile. Beh, quasi. Diciamo che. Al di là degli scherzi, è un gruppo straordinario, cioè sa fare delle cose incredibili. Sì, riescono a mettere insieme tanti pezzi, tanti tasselli diversi. Ma in Italia ci sono tanti fan di Dream Theater, tantissimi. E non solo. E non solo, e non solo. Spero che anche i Naif un giorno avrà. Io spero di sì, perché no? Perché no? Si sa mai nella vita, sai, musicalmente le vie sono sempre aperte. Basta, se uno voglia di suonare, trova sempre sistemi e modi di portare avanti un proprio messaggio. Perché l'importante è vostro, è portare avanti un proprio messaggio. Ed è proprio questo. Questa è la caratteristica delle band, che fa musica propria. Sì. E con difficoltà, perché è più facile. So che è più facile fare un giro di Alba Chiara, lo so. Però dopo ti stanca a fare per 360 volte Alba Chiara, no, non è così? Sì, io non c'ho niente contro le cover band, perché ognuno fa il proprio mestiere, capita che la gente vive facendo le cover band, però... No, più che altro non so che quanta soddisfazione puoi avere personalmente. Lo so, ma se uno deve mangiare purtroppo è un lavoro come capitare. Un altro. Esattamente. Sì. Preferisco magari due persone che mi dicono che il disco che ho... che abbiamo confezionato noi gli piace, lo ascolta, piuttosto che avere 2000 persone davanti facendo cover. Lo so. Questa è una scelta, chiaramente. Certo. 23:50, la nostra scelta è un primo disco, un primo pezzo dal vivo per salutare. Che pezzo fa? È sentito allora? Da messaggio, visto messaggio, che il primo messaggio, poi ne avremo un altro verso la mezzanotte. Ok. Sono fuggita perché cercavo la libertà che qui non trovavo mai, con i pensieri molto più che sfocati e una valigia di vestiti ordinati. Ora mi aspetto di trovare una scusa per cui valga la pena di sentirmi confusa, perché un sogno che vorrei realizzare non giustifica la voglia che ho io di scappare. So che mi penserai, che mi cercherai, che mi troverai, perché questo messaggio richiesta d'aiuto che lascio sul foglio, mi manchi, ti voglio, ho bisogno di te. Oggi cammino un po' annoiata per questa strada sconosciuta, affollata. Ho incontrato tanta gente diversa, ma senza te mi vedo sempre più persa. Ora mi aspetto di trovare una scusa per cui valga la pena di sentirmi confusa, perché un sogno che vorrei realizzare non giustifica la voglia che ho io di scappare. So che mi penserai, che mi cercherai, che mi troverai, perché questo messaggio richiesta d'aiuto che lascio su un foglio, mi manchi, ti voglio, ho bisogno di te. So che mi penserai, che mi cercherai, che mi troverai, perché questo messaggio richiesta d'aiuto che lascio su un foglio, mi manchi, ti voglio, ho bisogno di te. Anche questo poteva essere un singolo, secondo me, una ballata, non è una, un pezzo rock proprio al fulmicotore. È del primo album questa qua. È il primo, è il primo brano che ho del primo album? Del primo album. Che, hai scritto, che avete scritto te e Elisa, sì. Elisa praticamente. Sì, è una ballata, è un pop, è un pezzo pop. Chiaramente io non so la versione, chiaramente quella più dura, più energica, però qui in acustica poteva essere un singolo. Sì, sì. Cosa dite? È un messaggio pop, tra virgolette. Un messaggio pop. 23:53, adesso di messaggi ne facciamo quelli, sono seri anche questi, ma ripetiamo il vostro sito, tutto il resto. Allora, il nostro sito è, prendete nota, carta e penna, vi lascio 5 secondi, 5, 4. 5, allora, www.naif.org.uk UK. O meglio UK. UK, UK. Quindi là si può trovare di tutto. Di tutto, di più, è aggiornato, quindi entrate pure, prendete le informazioni che vi servono, ridete delle nostre fotografie perché alcune sono oscene e... Ma perché avete un sito così lungo? E il sito è questo, abbiamo trovato e vi andate a vedere, ve lo segnate. Certo, e ricordiamo il titolo del nuovo disco, Mai una distrazione, quindi si può trovare tutti ai vostri concerti. Sì. C'è il famoso bacchetto, tutti i dischetti sopra come si usava una volta, adesso si ritorna a usare come si usava una volta. Sì. Perché la discografia esige questo, visto che la discografia è in crisi, esatto, e dobbiamo ripirogare che il disco è stato autoprodotto da voi, quindi avete fatto tutto quanto voi, tutto noi. Assolutamente. Volevo aggiungere, sì, che a parte, beh, sì, lo trovate anche su iTunes se siete lontani dai nostri concerti, però vorrei dirvi che sì. Se andate sul nostro sito c'è un link per poter ascoltare gratuitamente tutto l'album e scaricare gratuitamente una canzone. Ah, bene, quindi fatevi sotto, fare un'idea, sente il pezzo, sì. Sente il disco e poi lo acquista praticamente. Se gli va, e se no che lo ascoltino finché gli esce dalle orecchie, a noi va benissimo comunque. A proposito di essere delle orecchie, quante volte avete ascoltato il disco prima di mandarlo alle stampe praticamente? Perché un musicista mi ha detto recentemente, che è venuto qua, non riuscivo più a ascoltarlo perché l'ho sentito centinaia di volte, finché era perfetto e poi per un mese non l'ho più sentito. No, io capita? Ho iniziato... No, guarda, io ero talmente contenta di come era venuto fuori che appena usciti dallo studio l'ho messo in macchina e ho iniziato ad ascoltarlo tornando a casa, e il giorno dopo ancora e ancora e ancora lo ascolto spessissimo, è uno dei dischi che ascolto più volentieri. Bene, quindi vuol dire che gli è entrato dentro. Sì, sì, sì. Quindi il terzo album, che abbiamo detto un album importante, un album di risalita, un album della definitiva consacrazione musicale, visto che abbiamo il batterista nuovo, Francesco, che ha dato la spinta giusta alla band, chiaramente. Esatto. Al di là di tutto che abbiamo parlato, seriamente Francesco ha dato Golia alla batteria. Ha dato la spinta giusta alla band. 23:57, abbiamo quasi finito, anzi abbiamo finito gli ultimi tre minuti per salutare i Naif, che è una band quindi in provincia di Padova che ha presentato il loro nuovo disco. Un saluto chiaramente live. Io ringrazio Marco Borgato in regia, vi ricordo che domani sera con Agostino Spolaura ci sarà Francesca Romana Perrotta, che è una musicista che viene da Bologna, una cantautrice, che presenterà il suo album alle ore 21. Ragazzi, con cosa terminiamo stasera? Adesso. Scusi, io farò dimmi, fai un po' di saluti. Un ringraziamento innanzitutto a te, a Marco, alla regia, a Gianluca, a Marino, e io saluto Elisa. Io saluto Caterina, mia fidanzata. Bene, bene. Io i saluti li ho già fatti prima, quindi dai. E io saluto i miei compagni di viaggio che sono qui con me. per questo disco e per il prossimo. Per il prossimo. Salutare tutti. Beh, i vostri fans. Il sì, anche un saluto particolare vorrei farlo ai miei genitori, perché sono sempre. Che supporto gli hanno dato. Sì, sì. Ci sopportano perché facciamo le prove in casa loro. E tra l'altro amano anche la nostra musica. Ecco, questo è positivo. E riescono a dormire anche. Non è semplice, però succede anche. E non sono sordi, eh. Esattamente per qui. Ok, buonanotte a tutti e grazie. Con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo con Furba America, abbiamo aperto e chiudiamo con la stessa canzone in versione acustica. Ok, bye bye. Buonanotte. Tutte mimetiche distinguono la tua da sempre nazionalità. Armi di fiori non esistono, mezzi d'assalto in quantità. Faccia ingannevole, faccia di un debole, racconta frottole, piccole, piccole, piccole. Stop! Vite cronica, Furba America, guerra e la città senza fine. Elite avida, Furba America, guerra e tenebra senza fine. Vite cronica, Furba America, guerra e la città senza fine. Elite avida, Furba America, guerra e tenebra senza fine. Metti verdi nella polvere, sporchi di pura avidità. Promesse tante a stelle strisce qui, concretizzate non si sa. Faccia ingannevole, faccia di un debole, racconta frottole, piccole, piccole, piccole. Lite cronica, Furba America, guerra e la città senza fine. Lite avida, Furba America, guerra e tenebra senza fine. Lite cronica, Furba America, guerra e la città senza fine. Lite avida, Furba America, guerra e tenebra senza fine.